Yes, people. Buonasera a tutti gli ascoltatori e a tutte le ascoltatrici. Questo è Jolly Roger e partiamo con la nostra sigla. Siamo in diretta, questa è la prima puntata per il 2001, 7 gennaio, iniziamo piano piano e prima di passare il mic a Matteo e Luca, Pirate Radio fa un tributo a quello che è stato un grande della musica come David Bowie e dedichiamo questo primo pezzo a tutti gli ascoltatori e a tutte le ascoltatrici. partiti belli carichi quest'anno. Prima puntata di Jolly Roger. E piano piano torniamo in diretta. Siamo in diretta qui dal Branca. Salutiamo le amiche del GAS, salutiamo tutti i compagni e tutte le compagne del Branca, salutiamo i colleghi, amici e chi ve pare che ci stanno ascoltando. Un ringraziamento speciale soprattutto della Prisma che ci consente questo nostro pseudo laboratorio, che tanto pseudo non è, ma piano piano sta diventando una stupenda e simpatica realtà. Allora, noi ora mandiamo la sigla di quello che ormai sta diventando una consuetudine di Jolly Roger, e diciamo così. Siamo qui in diretta, ora passo la linea ed il mic a Matteo, che ci darà i suoi pronostici e ci farà qualche sunto di quello che è il calciomercato di questi ultimi giorni e momenti. Allora, iniziamo con le partite e il pronostico. Io, Venezia mia 1-0, poi Napoli Up 1-0, Unitede 1-0, Roma 1-0, Itellato 1-1. Perfetto. E invece, per quanto riguarda il pezzo scelto da Matteo, che è un pezzo abbastanza storico, soprattutto cioè, conosciuto e compagnia bella, allora noi partiamo con la scelta di Matteo, che partiamo con Zucchero e Baila. Baila. Let me see you dance, baby. Vai coca, che mi sa coca. E dopo qualche problema tecnico torniamo finalmente in diretta. Ora, come avevamo detto precedentemente, il nostro amico Matteo ci farà un sunto di quello che è il calciomercato di questi ultimi giorni. Allora, iniziamo. Biodina, Pioni, Piontek. Piocchetta la Biodina. Poi Napoli, peso il Lecce, Sì. poi di Dudigno Coutinho a Ton, all'Aston Villa. Lilla, la Roma a Pedro a Dus. Madadio. Perfetto. E allora, ora, dopo che abbiamo dato questo piccolo sunto del calciomercato, Matteo ci manda questa sua scelta che ce la balliamo tutti quanti così. Nonostante i vari problemi tecnici, siamo sempre qui. Jolly Roger, 7 gennaio, prima puntata del 2022. Sinto noi torniamo in diretta. Questo è stato il pezzo scelto da Matteo per tutti gli amici e tutte le amiche, compagni di scuola, conoscenti, trick e track. Abbiamo detto che Jolly Roger partiva bello carico e belli carichi noi siamo, e ora sempre Matteo ci farà omaggio di una filastrocca di buon auspicio per questo 2022, soprattutto in compagnia di Jolly Roger. Vengo filastrocca di capolanno. Fai gli antoni tutto l'anno, poi un gennaio del sole, d'aprile, un luglio fresco, marzo gentile, poi un giorno senza sera, poi un mare senza povera, poi un mare sempre fresco, lo fie ci pezzo, il fiore ci pecco, che sano siano, amici di cane, il canto del cane, che Tano, latte fontane, se fai troppo non dammi niente, dammi una faccia allegra, insomma mette, buon anno a tutti. Grande Matteo, buon anno a tutti, questo è il nostro modo originale, questa era la filastrocca di Capodanno di Rodari, e noi proseguiamo con un altro pezzo scelto da Matteo, che ha scelto i Queen con Bohemian Rhapsody. Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide, no escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a easy go, little high, little low. Anyway, the wind blows, doesn't really matter to me. Mama just killed a man, put a gun. He's just a poor boy from a poor family, sparing his life from this war.

sera e che la sera di nuovo sarà una splendida giornata, stravissuta, straviziata, senza tregua. Una splendida giornata, sempre con il cuore in gola fino a sera, che fino a sera non arriverà. E con il cuore in gola torniamo anche noi qua in diretta, diretta dal Branca, Jolly Roger. Ora è l'appuntamento del nostro amico Luca, a cui passo il mic. Buonasera, ora vi racconto come sono andate le vacanze di Natale. Purtroppo non le ho potute passare con tutti i miei parenti perché una mia medica di classe ha preso il Covid e lei era positiva al tampone, dopodiché ho fatto due tamponi, il primo rapido in casa, negativo, secondo in farmacia a Piazza Montegennaro è negativo. Bomba, e infatti siamo qua. A Natale l'ho fatto soltanto con mio cugino Davide e mia zia Pamela, i miei fratelli. Che salutiamo. Non sono più in quarantena e sono libero di uscire. Ma ricordatevi tutti, mascherina alzata, un metro di distanza, igienizzarsi le mani con la mucchina oppure lavarsele. No, non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani. Perfetto, e visto i tempi, insomma, i vari contagi, le varie quarantene di tutti gli amici e le amiche che purtroppo ancora oggi sono frequenti, Luca dedica questo primo pezzo a tutti gli amici, a tutti gli ascoltatori, che chi è? Diccelo un po', Luca. Tito. Di Meghan Trainor. If you want my love, you gotta do what it does. If you want this sweet like sugar, Gucci lips, you gotta give it up. I know you think I'm cool, but I am one of the boys. No, don't be scared that I'm gonna tie you down. I need a little more. Baby, don't call me your friend if I hear that word again. You might never get a chance to see me naked in your bed. Siamo sempre fresh qui a Jolly Roger. Give me E torniamo in diretta sempre dal Brancaleone, sempre dalle 17 alle 18. Oggi sforiamo qualche minuto perché, come dicevamo poc'anzi, ci sono stati un po' di problemi tecnici, ma nonostante tutto e nonostante tutti siamo sempre qua. Ora c'è Luca che ci vuole raccontare due cosette, ripasso il mic a lui. Offerte Casa & Co, l'igiene della casa, finish, pasticche e lavastoviglie a 1,79€, svelto, piatti e curicarica 1,89€, chantecler, grande, grattatore a 1,99€, dual power 1,89€, coccolino ammorbidenti in formato XXL 1,19€. Ah, è vero, tre battute poi. E dopo passeremo con le tre battute, come stavamo dicendo. Intanto adesso passiamo l'altro pezzo che Luca aveva scelto, che lo facciamo dire da lui, eh? The Let's Groove! Senti che groove che ha scelto il nostro amico Luca. Let you know, girl, you're looking good, you're out of sight. E noi torniamo in diretta sempre qui dal Brancaleone, questo è sempre Jolly Roger. E ora è il momento di quello che sta diventando un must anche di Jolly Roger, sono gli sketch di Luca. Passo direttamente il microfono a lui e subito dopo le sue battute altro pezzo che facciamo presentare direttamente a Luca. E ora intanto Pandemic Luca. Aspetta. Non riesco. Sto facendo, non mi ricordo. Dottore, ha qualcosa per la tosse? No, prego, faccia pure. Aspetta. Che? Torniamo in diretta e mandiamo il pezzo che ha scelto Luca, Ti fa stare bene, di Caparezza. Facciamo ciò che ci fa stare bene, facciamo Jolly Roger. Tutti i venerdì dalle 17 alle 18 circa. Stop it. E torniamo sempre in diretta su Jolly Roger, sempre dal Branca. Allora, ci eravamo stoppati prima con Luca e c'era stato un problema con il mic. Ora abbiamo risistemato e Luca è pronto per le sue battute. Ho comprato un libro e come si intitola? Come risolvere il 50%, il 50% dei problemi del libro. Dove l'hai comprato? Ah, ne ho comprati due. Mi devi dire 5 animali che iniziano per la lettera E. Il gatto, il topo, il cane, il pappagallo, il toro. E ora ritorniamo in diretta. Abbiamo detto prima che purtroppo in questa puntata mancherà la nostra amica Alice. Sarà presente venerdì prossimo. Ora dedichiamo un pezzo che rappresenta anche la sua rubrica, che è sulla mobilità di Roma. Il pezzo che abbiamo scelto è dell'amico e nonché anche collega Giorgio Agarastablanco. Lo salutiamo, visto che purtroppo non ci siamo potuti rivedere ancora in questo nuovo anno, e lo invitiamo a venire anche qui a trovarci in diretta per farci compagnia durante una puntata. Quindi intanto salutiamo Giorgio, salutiamo Alice e diamo di play. Come again. Se siete mostrati, right. Stiamo mezzo al traffico di Roma, ce l'hai presente, lo sai come funziona. È capitato, già lo sai da te, se non c'è sei mai stato te lo dico io com'è. È una caciara, una vera boccia, una bibinara, è una cambogia, è muricare le macchine impazzite, si poi te lo racconto da merenda mo se ride. Il grande raccordo anulare è come una giostra che gira sempre intorno. Se lo trovi incolpato poco male, ma se è bloccato ci rimani tutto il giorno. La tangenziale lasciala sta, via un'altra strada, non ti sbaglia. Se parla dritto nell'occhio del ciclone, allora ti consiglio via la circonvallazione. I mezzi pubblici sono tutti pubblici per via del prezzo della tempestività. Infatti l'autobus vanno lentissimi, solo un pochetto più veloce c'è Bartram. Poi c'è la metro, buona anche quella, solo due linee, la terza è la più bella. Rimane il treno, sempre gagliardo, fare fatta apposta per chi può arrivare in ritardo. Non c'è ritorno più, io non ci voglio tornare. È un delirio, è una tortura, è un martirio, è una congiura, è una condanna per l'automobilista, perché ogni santo giorno lui è costretto a tornare in pista. I pizzardoni sono poveracci e a fine turno sono ridotti come stracci. E per sfogarsi tu lo sai che fanno, a me personalmente a più 3-4 volte l'anno. E gli semafori sono deficienti, quando ti servono li trovi tutti spenti. Quando invece scorre tutto regolare, li becchi sempre rossi e intermittenza semestrale. A me di quello mi pare in gabbia, lui c'ha una fretta che se lo porta via. E già da un pezzo sì che schiuma dalla rabbia, fate le corna pure alla polizia. E li parcheggi son merce rara, per trovo a posto tutti quanti fanno a gara. I principianti sono una minaccia, dei ripetoni sulle strisce vanno a caccia. Il motorino fa piena spada, sulle due ruote lui il padrone della strada. Per quello davanti del bianco sopra e sotto, te dietro invece no. Non c'è ritorno più, se voglio tornare, non ci ritorno più. Ce l'hai mai stato in mezzo al traffico di Roma? Ce l'hai presente, lo sai come funziona? In mezzo al traffico di una grande città, io lo conosco bene, non ci voglio ritornare. Non ci ritorno più, io non ci voglio tornare. È proprio il traffico di Roma, la bellezza di ascoltare la musica, di ascoltare la radio, di ascoltare Pirata Radio. Allora, ricordiamo, come abbiamo scritto anche nei vari post, che sarà un anno ricco, un anno pieno di news. La prima news è che Jolly Roger mercoledì dalle 17 alle 18.30 circa farà una puntata speciale insieme a Totem. Piano piano nei prossimi giorni sveleremo quello che sarà della puntata di mercoledì. Ricordiamo gli altri appuntamenti di Pirate Radio, che sono domenica dalle 19 alle 20.30 Murdoch Selecta, che presenta il suo live Boat Vibes, tutte le domeniche. Mercoledì, come ho detto prima, mercoledì 12, puntata speciale di Jolly Roger insieme a Totem. E dalle 21 alle 23, come tutti i mercoledì, Port Royal. Vi aspettiamo. E intanto noi scegliamo, andiamo con un pezzo che ha scelto Luca e si chiama proprio Schiaccia Play. Hey, Schiaccia Play. Schiaccia Play, Schiaccia Play. Poi, dopo un po' vedrai. Nuovamente non voglio fuori. Prende fuoco il posto quando partono i bassi, casse rullanti pesanti come massi, i DJ le vanno dalle maniche e gli assi, che hanno in serbo per la massi. Si percepisce al primo ascolto se di stile ce n'è, come ti approcci sopra il ritmo ed imposti il tuo slang. Rendi il tutto originale e personale perché non risulti mai superfluo come in Francia il bide è super tuo. Quello che ci abbiamo è quello che ti diamo mo, quello che dentro ti fa gridare più di un pa. Si contraddistingue in ogni lingua ed è uno show. Senti, ne metti voi più di uno sulla terza. La musica regga è la risposta a ogni tipo di domanda. Cultura della gente che la verità te canta. Pigliati del suo suono, balliamo tutti quanti. Tutte le scese di umano e muovendo gli fianchi. Reggae music, patrimonio dell'umanità. Dice porta con luce in già ogni città. Taccamo la spina, facciamoli vibrare. Perché sto suono è forte e anche giusto a sentire. Schiaccia play, schiaccia play, schiaccia play. Poi dopo un po' vedrai. Dimmi la tua nuova vai. Prende fuoco il posto quando partono i bassi, casse rullanti pesanti come massi. Chiamu, i DJ le vanno dalle maniche e gli assi, che hanno in serbo wow, per la massi. Hey, oh what a world, oh a punk in Berlin. Come una canzone degli antichi proverbi. Così noi puntiamo cantando stornelli. Cara, qua è sempre agli fiori più belli. L'unerone, l'unterone, per cui insieme alla tradizione. Me ne camminati in moco all'antica fuori della busta combinazione. L'unico più degli DJ, muoio a qua in giola spugnone. L'unico meglio degli sonboy su una storica versione. Per non farmi un nerone, mina mina mina mina mo, vinta la torna sta versione. Cate cacciamo un flow con le tecniche comprese. Senta Monterrone, Salentino o Calabrese. Ehi, hey, ring the alarm, big company is shantime. Uoi, ehi, hey, abbiamo fame solo di goodbye. Giamo un tono! Schiaccia play. Schiaccia play, schiaccia play. Poi dopo un po' vedrai. Prende fuoco il posto quando partono i bassi. Casse rullanti pesanti come massi. I DJ le vanno dalle maniche e gli assi, che hanno in serbo per la massi. E qui da Po Pirate Radio si pigia sempre play. Se vuoi mi senti voglia fuori. Prende fuoco il posto quando partono i bassi. Asse rullanti pesanti come massi. I DJ le vanno dalle maniche e gli assi, che hanno il serbo per la massi. Non venire Shine Style. Nerone Fabio voglia fuori. Bring me your good vibes. Schiaccia play. Non interrompo più, muoio qua. Che